perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Dopo le dichiarazioni sul referendum dell'ambasciatore americano parla Mattarella, la sovranità è degli elettori, ma ogni cosa che avviene in un paese si ripercuote sugli altri. Si indaga per istigazione al suicidio dopo la morte della donna i cui video hard hanno fatto il giro della rete a Rimini, 17enne stuprata in discoteca, le amiche ridono, la filmano e fanno circolare il video su WhatsApp. Juncker annuncia il raddoppio del piano investimenti e chiede una flessibilità intelligente. Siamo in una crisi esistenziale dell'Europa, cittadini stufi della poca coerenza dei governi, dice. Secondo oro paralimpico per l'Italia, arriva nel nuoto, proseguono i ritratti che Effetto Giorno sta dedicando ai nostri atleti. Oggi la storia di Giusy Versace. Il Crotone, fresco di promozione in Serie A, potrebbe finire sotto sequestro. I due proprietari della squadra sono accusati di essere vicini all'Andrangheta. Oggi la decisione. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque le polemiche sul referendum sulle quali è tornato il Presidente della Repubblica Mattarella. La sovranità è degli elettori, Sergio Mattarella lo ricorda intervenendo nel corso della sua visita a Sofia sulle polemiche nate dalle parole dell'ambasciatore americano in Italia che ieri si era schierato a favore del sì al referendum costituzionale. È normale che anche all'estero ci sia attenzione per quello che succede nel nostro paese, dice il Presidente della Repubblica, che invita a vivere con serenità la consultazione. Il mondo si è molto interconnesso. Quindi ogni avvenimento in un paese importante, e l'Italia è un paese importante, è seguito con attenzione anche all'estero. Naturalmente questa considerazione non muta in nulla il fatto che la sovranità sia esclusivamente demandata agli elettori. Al capo dello Stato si erano rivolte le opposizioni che, assieme alla sinistra del PD, ieri avevano definito una indebita ingerenza la presa di posizione sul referendum da parte dell'ambasciatore americano Phillips, secondo il quale una vittoria del no non favorirebbe la stabilità politica del nostro paese e finirebbe così per allontanare gli investitori stranieri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre sul fronte politico resta in primo piano la vicenda della Giunta di Roma e del Movimento 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, si discute sulla possibilità di un governo di scopo nei 5 Stelle. Luigi Di Maio precisa la dichiarazione di Alessandro Di Battista di ieri: se dovesse vincere il no al referendum, per Di Maio decide il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma andrà fatto un punto sulla legge elettorale. Sentiamo il Vicepresidente della Camera. Il Movimento 5 Stelle va al governo con i voti degli italiani. Sono d'accordo con l'idea che non ci sarà nessuna apocalisse dopo il no. È chiaro che noi non ci mettiamo né a condividere idee di leggi elettorali come l'Italicum, che poi praticamente è il porcellum, e tantomeno ci mettiamo a mettere in discussione la questione dei governi fabbricati qui in Parlamento tra l'unione di partiti. Sono i cittadini sovrani che devono decidere. Ancora stallo invece in Campidoglio, la sindaca Virginia Raggi non scioglie il nodo sull'assessore al bilancio ma garantisce che arriverà. Stamattina Raggi ha incontrato il patron della Roma, James Pallotta, per il nuovo stadio, un incontro che dice è andato bene ma senza affrontare i dettagli tecnici. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Siamo alla vicenda della donna di 31 anni che si è tolta la vita dopo che il video hard che la ritraeva ha fatto il giro della rete. Ne abbiamo parlato ampiamente anche nella trasmissione di Gianluca Nicoletti. In Melo veniamo al punto di cronaca. La decisione era d'obbligo. La procura di Napoli Nord apre un fascicolo per istigazione al suicidio per la morte di Tiziana, 30enne suicida dopo la diffusione in rete di suoi video hard. Aveva combattuto e vinto una battaglia legale con i giganti della rete per il suo diritto alla rimozione di quei filmati, ma poiché quei rapporti erano stati considerati consenziente, lei era stata condannata a pagare le spese processuali, rivela ora la mamma che, disperata, ripercorre le ultime ore di vita della ragazza. Non l'ho vista per tutto il giorno, non ho potuto fermarla, ripete agli investigatori che ora dovranno ricostruire tutto il cammino di quei filmini hot che la donna aveva mandato ad alcuni amici, salvo poi trovarseli online dappertutto. Il suo legale aveva già citato in giudizio chi aveva postato il video, ma pure Facebook, Yahoo, YouTube, Google. Per questa vicenda Tiziana, figlia di un gestore di bar, aveva in passato cambiato identità e indirizzo, ma continuava ad essere perseguitata da una leggerezza diventata per lei lettera scarlatta. e poi gogna mediatica, nonostante avesse ottenuto la rimozione del profilo di chi la insultava online. Almeno adesso merita oblio e silenzio, è la voce che si leva da quella stessa rete che non aveva affatto dimenticato né perdonato il gesto di una ragazza. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è la vicenda della quale vi accennavamo nei titoli, di una ragazza di 17 anni che a Rimini è stata stuprata in discoteca, di questo video circolato su WhatsApp con le amiche che ridono e la filmano. Torneremo a parlarne più avanti nel corso del nostro consueto giro per l'Italia. Tra l'altro vi ricordo che sabato nella rubrica Storiaccia della nostra Raffaella Calandra parleremo proprio di questi temi, quando la reputazione uccide. All'indomani dell'annuncio di Padoan sul taglio delle stime di crescita si continua a ragionare sulla manovra, si continua a ragionare di pensioni. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Cantiere della manovra che deve tener conto, lo anticipavi da studio Simone, dell'abbassamento delle stime di crescita del PIL annunciato ieri dal ministro dell'economia Padoan e confermato dal premier Renzi. Meno crescita significa meno risorse per una legge di stabilità che dovrebbe attestarsi sui 25 miliardi di euro. Di oggi poi un altro segnale su un momento economico con il freno a mano tirato, con la conferma da parte dell'Istat del mese di agosto ancora in deflazione su base annua, meglio il dato mese su mese con una accelerazione dei beni che compongono il carrello della spesa. Con queste premesse l'obiettivo principale di Palazzo Chigi è la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, operazione che vale 15 miliardi. Poi ci sono le pensioni. Il governo ha di fatto chiuso positivamente il confronto con i sindacati sul pacchetto previdenza e un'intesa dovrebbe arrivare il 21 settembre. Tra anticipo pensionistico, la quattordicesima agli assegni più bassi, la ricongiunzione non onerosa, si tratta di un pacchetto intorno a 2 miliardi di euro. Resta però il nodo dei lavoratori precoci, è molto difficile da affrontare, spiega il ministro del lavoro Poletti, perché ha un livello di costo molto alto. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque Vincenzo Miglietta. Domani è il giorno dell'assegnazione del bonus dei 500 euro per i diciottenni. Un bonus per comprare libri, biglietti per mostre, teatri e concerti legati alla cultura. È riservato a chi compie 18 anni nel 2016, quindi classe 1998, studenti e non, anche extracomunitari. Ma per i maggiorenni sarà possibile quindi andare a teatro o al cinema e scalare automaticamente il prezzo del biglietto? Non proprio. Bisognerà prima registrarsi al sito 18app.it e ottenere dei voucher da poter utilizzare in cassa. Si potrà scegliere tra le proposte culturali dei soli rivenditori che aderiscono all'iniziativa. Niente vestiti, musica o streaming dunque. Piuttosto biglietti per cinema, teatro, eventi dal vivo, parchi e musei. Al momento non sarà però ancora possibile effettuare degli acquisti. Bisognerà attendere qualche settimana quando saranno online le offerte degli esercenti che aderiscono all'iniziativa. Ma gli oltre 274.000 ragazzi che usufruiscono del bonus avranno tempo fino a dicembre 2017. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al discorso sullo stato dell'Unione di Jean-Claude Juncker. Il dopo Brexit, la querelle sulla flessibilità ai migranti, l'assalto terroristico e la crisi in Siria, l'Europa matura per una difesa comune. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si presenta nell'emiciclo del Parlamento europeo per il consueto discorso sullo Stato dell'Unione e snocciola uno dopo l'altro i molti temi di un'Europa che, non nasconde, ha perso identità. Così, se sul fronte economico annuncia il raddoppio del piano di investimenti, 500 miliardi fino al 2020, è in tedesco che pronuncia le parole più attese. Il patto di stabilità ha un suo effetto, ma non deve diventare patto di flessibilità, bensì un patto applicato con flessibilità intelligente. Dunque basta austerity, ma con accortezza, in un'Europa che annuncia ancora deve puntare alla crescita e tentare il blitz digitale con un 5G europeo che, dice, porterebbe 2 milioni di posti di lavoro. Poi i migranti, con i fondi chiesti dall'Italia per una cooperazione esterna, il Migration Compact per l'Africa, più sostegno per i minori accompagnati, ma accanto alla solidarietà, la sicurezza. Il terrorismo è una priorità, dice, non solo per la Francia, tant'è che entro novembre la Commissione proporrà un sistema europeo di informazione sui viaggi. Qu'une personne entrera dans l'Union européenne Ogni volta che uno entra in Europa sarà registrato luogo, data e motivo dello spostamento. Europa matura, dice ancora il presidente della Commissione, anche per una difesa comune europea. Ed Europa che deve muoversi unita sulla Siria per giocare un ruolo comune al tavolo internazionale. Un programma, non nasconde Juncker, per un anno cruciale. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di terrorismo, è stato fermato a Parigi un adolescente che a quanto pare era pronto a perpetrare un attentato, e quanto riferiscono fonti locali, il ragazzo è stato posto in stato di fermo dagli 007 transalpini. Nato nel settembre del 2001, è stato fermato nel 20° arrondissement nella zona nord di Parigi. Torniamo all'Italia, atteso per oggi il CDA del Monte dei Paschi per la scelta dell'amministratore delegato, una scelta, Luca Davi del Sole 24 Ore, che è decisamente scontata, no? Sì, diciamo che si terrà nel primo pomeriggio a Milano il CDA di Banca Montepaschi, un CDA che, se tutto filerà liscio, ricordiamo, lo designerà Marco Morelli, il nuovo amministratore delegato della Banca Senese, poi subito dopo la palla tornerà alla BCE, che dovrà dare il suo ok formale, anche se ieri, va detto, la vigilanza avrebbe concesso un via libera preliminare alla nomina, a valle dei colloqui che sono stati tenuti con il presidente Tononi, il socio Falciai e lo stesso Morelli. Dunque, in assenza di colpi di scena, il banchiere, che oggi è a capo di BofA Merrill Lynch in Italia, dovrebbe arrivare a Siena all'inizio della prossima settimana. E cosa farà? Possibile che il manager voglia rivedere il piano industriale, che poggia sull'aumento di capitale da 5 miliardi. Un'ipotesi è che la ricapitalizzazione slitti dopo il referendum costituzionale e si riduca a 2-3 miliardi, però contemplando anche la conversione dei bond subordinati che sono in mano agli istituzionali. Dunque, tutto questo però BCE permettendo, ovviamente. Ti ringrazio, grazie a Luca Davi per questo aggiornamento. Nel frattempo Monte dei Paschi in questo momento perde l'1,75%, è tra i titoli peggiori sul listino principale. Messa del Papa per il prete ucciso in Francia. E oggi nella Chiesa ci sono più martiri cristiani dei tempi primi. Così il Papa, durante la messa a Santa Marta, in suffragio del prete francese ucciso da due terroristi in una chiesa di Rouen. I martiri, ha spiegato Francesco, sono beati e tra loro c'è già padre Jacques. Poi l'appello a tutte le religioni. Quanto piacerebbe che tutte le confessioni dicessero uccidere in nome di Dio è satanico. E proprio per dire il loro no alla violenza in nome di Dio, i leader di tutte le confessioni religiose, tra loro Francesco, si ritroveranno a partire da domenica ancora una volta ad Assisi, a 30 anni dalla prima intuizione di Giovanni Paolo II. Il vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino. Dirlo, ribadirlo e gridarlo è veramente satanico, perché Dio è amore, Dio è pace ed è sorgente di amore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Seconda medaglia d'oro per l'Italia alle Paralimpiadi è quella conquistata da Francesco Bocciardo nei 400 stile libero categoria S6 con il tempo di 5:02:15. Bocciardo ha preceduto l'olandese Van Hofgen e il cubano Perez Escalona. Sono 15 le medaglie dell'Italia alle Paralimpiadi, 2 ori, 7 argenti, 6 bronzi. E noi proseguiamo con i nostri ritratti, con i ritratti che stiamo dedicando ai nostri atleti paralimpici, ritratti che trovate ovviamente qua in diretta in effetto giorno, ma che potete riascoltare anche sul nostro sito www.radio24.it. Molte puntate da recuperare perché abbiamo iniziato martedì e finiremo nella giornata di venerdì. Sentiamo da chi ci porta oggi Dario Ricci. Il guardrail dovrebbe tutelarti, dovrebbe fare da cuscino, ti dovrebbe ributtare in strada, no? Nel caso di urto, in questo caso qui hanno ceduto dei bulloni, si è aperto e ha sfondato l'abitacolo della macchina tranciandomi subito le gambe. Aveva un brutto presentimento Giusy Versace quel 22 agosto 2005. Di più, la notte prima un incubo l'aveva quasi preannunciato che all'indomani qualcosa di brutto sarebbe accaduto. Ma ballo a immaginare quell'acquazzone sulla Salerno-Reggio Calabria, la macchina che perde aderenza, il guardrail che si trasforma in un maledetto rasoio che ti trancia di netto le gambe. Ma Giusy non è solo bella, è tosta. Nel 2007 ritorna a guidare e 3 anni dopo scopre l'atletica leggera, diventando la prima donna italiana a correre con una biamputazione agli arti inferiori grazie alle protesi in fibra di carbonio. Nel frattempo fonda e presiede l'associazione Disabili No Limits. tipa tosta, ma anche bella, dicevamo, Giusy, che lavora nella moda da sempre. Se ne accorge anche la TV. Ha la passione per la musica e la coordinazione dell'atleta, e allora quasi non fa notizia quando vince ballando con le stelle. E la curiosità per gli altri sport la porta a diventare co-conduttrice della Domenica Sportiva. Ma la pista continua a chiamarla. A Rio, alla sua prima partecipazione, c'è un podio paralimpico da conquistare. Di corsa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Inizieremo innanzitutto da Crotone. Di Crotone ci siamo occupati nei giorni scorsi, come ricorderete, per la vicenda dello stadio e dell'ampliamento dello stadio che rischia di andare a coprire delle antiche rovine di una delle città più importanti della Magna Grecia, ma le questioni calcistiche di Crotone non si esauriscono qua. Il Crotone, lo sapete, è in Serie A. Oggi è attesa una sentenza importante che potrebbe portare al sequestro delle quote della squadra, perché gli imprenditori proprietari della squadra sono accusati di essere contigui all'Ndrangheta, nonostante abbiano subito tra l'altro una serie di attentati e di intimidazioni. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del dibattito sul referendum e dell'intervento di Mattarella, abbiamo parlato della vicenda della donna che si è tolta la vita dopo che il suo video hard ha fatto sostanzialmente il giro della rete, abbiamo parlato del rapporto sullo Stato dell'Unione di Jean-Claude Juncker e del secondo oro paralimpico per l'Italia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo tornando a Crotone. Come vi dicevo poco fa, per gli ascoltatori che non fossero stati appunto a sentire la trasmissione nei giorni scorsi, ce ne siamo occupati per la vicenda dell'ampliamento dello stadio, adesso ci occupiamo di Crotone per un'altra vicenda che riguarda però sempre il calcio. Crotone, appunto, neo promosso in Serie A, le cui quote, però le quote del Crotone, rischiano di finire in questo momento sotto sequestro. Saluto Alessia Candito, che è una giornalista di Repubblica e che si trova a Catanzaro perché è in corso un'udienza proprio su questo tema. Alessia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Allora, qual è la vicenda, Alessia? Allora, in realtà l'udienza è appena finita. La vicenda può essere sinteticamente riassunta così. Per la procura, per la DDA di Catanzaro, per i magistrati antimafia di Catanzaro, i Vrenna, Raffaele Vrenna e il fratello Giovanni sono degli imprenditori collusi con i clan. Per la difesa, loro sono delle vittime con i clan, sì, nel corso della loro attività imprenditoriale, come testimoniano delle intercettazioni, ci sono stati dei contatti, ma loro sono stati vessati dalla malavita, non hanno tra l'altro tra l'altro, Alessia, proprio nel pezzo, nel servizio che tu firmi oggi sul quotidiano, si racconta di 40 tra episodi di intimidazione e danneggiamenti che i due hanno subito, no? Sì. C'è da dire anche che Raffaele Vrenna è stato processato per concorso esterno nell'inchiesta Puma, ma è stato, dopo essere stato condannato in primo grado, è stato assolto in appello. Quello che dicono però i magistrati di Catanzaro è questo: in quella sentenza, sebbene non siano stati riscontrati elementi per arrivare a una condanna per concorso esterno, è emerso che Vrenna è un imprenditore spregiudicato, che non si ferma di fronte a niente e che sa come si lavora in Calabria, quindi non esita a contattare i clan di malavita quando ha bisogno di stare tranquillo, ha bisogno che i suoi mezzi, ad esempio, non vengano danneggiati o toccati. Questo, appunto, questo è il racconto, questo è quello che sostiene la procura. Alessia, è sostenuta questa tesi della procura da cosa? Dalle dichiarazioni di un pentito, mi sembra di aver capito. Di diversi pentiti, anzi oggi la procura ha depositato dei nuovi atti, tra cui le dichiarazioni di altri pentiti che fanno risalire i contatti dei Vrenna con la malavita agli anni 90. Quindi la procura dice: attenzione, tutto l'impero imprenditoriale è stato costruito con questi metodi, quindi tutto l'impero imprenditoriale, incluso il Crotone, va sequestrato. E quindi appunto abbiamo una squadra di Serie A che potrebbe finire sotto sequestro in quanto bene appartenente a un sostanzialmente a un mafioso, una persona collusa. Non un mafioso, ma una persona, un imprenditore colluso con i clan. Un imprenditore che per fare impresa in Calabria si è appoggiato ai metodi intimidatori della malavita crotonese, e non solo a Crotone, perché Brenna ha un impero soprattutto nel ramo della gestione rifiuti ed ha appalti in tutta la Calabria, ma anche in Basilicata. Ascolta Alessia, ci hai detto che è appena finita l'udienza, che tempi dovremmo avere per avere qualche notizia su adesso tutto questo? Adesso la prossima udienza è fissata per ottobre e lì è presumibile che si arrivi a una decisione. Quindi per ottobre dovremmo avere una decisione per quel che riguarda il Crotone. Certo, sarebbe, come dire, un caso veramente particolare. Ti ringrazio, grazie ad Alessia Candito, giornalista di Repubblica, che si trova a Catanzaro per quest'udienza che riguarda il Crotone Calcio. E noi ci spostiamo nel nostro giro per l'Italia a Rimini. Abbiamo raccontato, l'ho raccontato ampiamente anche Gianluca Nicoletti nella sua trasmissione, della vicenda della donna di 31 anni che ieri si è tolto la vita dopo che il suo video, il video hard nel quale era stata ritratta, ha fatto il giro della rete, è diventato oggetto anche di scherzi, di meme e via dicendo. C'è una storia che per certi versi è parallela, che arriva proprio in queste ore da Rimini, ed è una storia che riguarda una 17enne che sarebbe stata violentata in discoteca. Siamo in linea con Carlo Andrea Barnabè, che è vice caposervizio del Resto del Carlino a Rimini. Buongiorno Carlo, benvenuto. Buongiorno. Allora, la storia che viene raccontata, sulla quale mi sembra di capire al momento non abbiamo grandissimi dettagli, è quella di riprese fatte dalle amiche, fatte circolare su WhatsApp di questo episodio. Esattamente, sì, infatti diciamo che la cosa che colpisce di questa vicenda, che riguarda comunque l'accusa di uno stupro, è l'atteggiamento, diciamo, dell'amica della vittima, questa 17enne che sarebbe stata stuprata nel bagno da un amico o da un conoscente, appunto, incontrato in discoteca, e che riguarda appunto l'atteggiamento, la strana reazione, diciamo, di queste amiche che avrebbero ripreso lo stupro dal bagno accanto, attraverso il telefonino, e poi successivamente l'avrebbero fatto circolare su WhatsApp fino a che è arrivato alla ragazza, e da lì è scattata la denuncia della madre e l'inchiesta. Quindi diciamo la cosa sorprendente e quella che colpisce anche con l'analogia del caso di Napoli, appunto, è questa diciamo l'uso delle riprese attraverso la loro diffusione di queste immagini, invece di avere una reazione che tutti noi riterremmo scontata, cioè quella della denuncia, dell'intervento, del grido, insomma, di allarme, no, nei confronti di un'amica. Anche chiamare il butta fuori, molto semplicemente, esatto. Insomma, no? Qualcuno, infatti, che possa intervenire. Sì. Loro ridono addirittura in questo, esatto, video. In questo video si sentono appunto le risate, le battutine delle ragazze, quindi l'unica ipotesi, io così, che mi posso fare, gli investigatori stanno lavorando proprio per capire, intersentendo anche solo le ragazze e coinvolte nella vicenda, cioè capire se loro fossero consapevoli del fatto che in quel momento ci fosse uno stupro in corso, oppure ritenessero che invece l'amica aveva semplicemente un rapporto con un ragazzo, anche se è difficile, da quello che è emerso, immaginare una cosa di questo genere, proprio perché la ragazza diciamo durante il video è praticamente semisvenuta, quindi non c'è nessuna partecipazione, quindi c'è le riprese vedrebbero appunto questa ragazzina in uno stato completamente di incoscienza. Ascolta una cosa, la cosa è successa, mi sembra di aver capito, a lei è arrivato anche a lei questo video, se n'è accorta il giorno dopo perché probabilmente era ubriaca, insomma, e a quel punto ha denunciato, no? Ho capito bene? Sì, diciamo i tempi sono più lunghi perché il fatto risale a diverse settimane fa, quindi credo che se ne siano resi conto poi successivamente lei, perché nel passaggio non è un social tipo Facebook, quindi ovviamente deve mandartelo direttamente il video su WhatsApp, però sarebbe arrivata e da lì lei sarebbe andata dalla madre e disperata dicendo guarda c'è questa cosa, e ovviamente avrebbe cominciato e sarebbe iniziata appunto l'inchiesta, che porterebbe proprio in queste ore, le novità credo del momento, che porterebbe all'identificazione di questo ragazzo di 23 anni che verrebbe indagato appunto per violenza sessuale, e quindi anche perché poi ricordiamoci che riguarda una minorenne, quindi ovviamente con tutte le cautele del caso. Grazie a Carlo Andrea Bernabè, vice capo servizio del Resto del Carlino a Rimini, per averci aiutato a raccontare questa storia. Noi adesso ci fermiamo, andiamo tra un attimo a sentire cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione proseguiamo il nostro giro per l'Italia. Dopo aver toccato Crotone e Rimini andiamo in un punto un po' più largo, per così dire, della mappa, insomma, proprio nella pianura padana, perché è stato lanciato un allarme dall'ISPRA che dice ci sono pesticidi anche nelle acque che beviamo. Ne parleremo proprio con l'ISPRA per capire, insomma, quanto c'è di vero, quanto c'è di reale. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli dopo le dichiarazioni sul referendum dell'ambasciatore americano, parla Mattarella, la sovranità è degli elettori, dice il presidente. Si indaga per istigazione al suicidio dopo la morte della donna i cui video Arda hanno fatto il giro della rete. Juncker annuncia il raddoppio del piano degli investimenti e chiede una flessibilità intelligente nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Secondo oro paralimpico per l'Italia, arriva nel nuoto la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, proseguiamo il nostro giro per l'Italia e lo proseguiamo da questo titolo che abbiamo trovato sul quotidiano La Stampa. La pianura padana avvelenata, pesticidi nelle acque che beviamo. È un pezzo firmato da Roberto Giovannini nel quale si fa riferimento a un rapporto dell'ISPRA, di un team dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che dovrebbe essere presentato, diciamo, nella sua completezza a Roma il 26 di ottobre, questo rapporto. Abbiamo in linea con noi Pietro Paris, che è responsabile del settore sostanze pericolose dell'ISPRA. Paris, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E dunque, appunto, il nostro giro per l'Italia tocca in questo momento una zona un po' più ampia, perché parliamo delle acque della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia-Romagna e del Veneto. Le chiederei innanzitutto di chiarire ai nostri ascoltatori, molti ne abbiamo in queste regioni, molti che bevono acqua dal rubinetto come tutti noi, si lavano i denti quotidianamente, utilizzano quest'acqua per tutto quello che fanno e che probabilmente vogliono capire qualcosa di più rispetto a un titolo che oggettivamente spaventa un pochino. Ci dà un'idea di quello che succede? Allora, le sostanze di cui si parla nell'articolo sono largamente, diffusamente presenti nelle acque superficiali e sotterranee. La terbutilazina a livello nazionale è presente in oltre il 39% dei punti di campionamento. Parliamo di migliaia di punti. E è presente nel 6% circa dei punti delle acque sotterranee. Che poi sono quelle dalle quali, mi scusi, che sono quelle dalle quali prevalentemente prendiamo l'acqua che poi entra nei nostri acquedotti, o no? O mi sbaglio? Ecco, noi, il nostro monitoraggio ha finalità essenzialmente ambientali, quindi non abbiamo informazioni sull'acqua che esce dal rubinetto. Ovviamente, diciamo, è abbastanza probabile che gli approvvigionamenti idrici attingano gli stessi corpi idrici. Sì. Faccio un esempio abbastanza così emblematico: si prende acqua dal Po per bere in alcune città importanti della pianura padana. Ovviamente, diciamo, i gestori dell'acquedotto hanno l'obbligo di legge di depurare. quello che vogliamo quindi diciamo il consumatore non corre dei rischi, è l'ambiente che corre dei rischi seri. Perfetto, questo è importante, le ripeto, proprio perché il titolo che abbiamo trovato sul quotidiano La Stampa era un po' forte, tutto sommato, volevamo star tranquilli, quindi il processo di depurazione può portare all'eliminazione di queste sostanze che sostanzialmente sono, lo chiariamo agli ascoltatori, sono dei diserbanti che vengono utilizzati da chi ha colture di mais, se ho capito bene, no? Sì, prevalentemente sì, viene utilizzata, la terbutilazina è utilizzata prevalentemente nel mais e nel sorgo, la trazina è fuori commercio da 30 anni, ma viene ancora trovata, diciamo, la finalità del nostro studio non era tanto quella di tirar fuori queste informazioni che abbiamo pubblicato di recente a maggio nel rapporto pesticidi, quanto quella di capire come può evolvere la contaminazione nell'ambiente, perché diciamo mancano studi in questo senso. Le sostanze vengono autorizzate con delle valutazioni preventive, poi diciamo i dati di monitoraggio, che sono oramai abbastanza abbondanti, ci fanno osservare un fenomeno diverso e non previsto nell'autorizzazione, per cui la trazina è ancora fuori commercio da tanti anni, è ancora uno degli inquinanti più presenti. Ma questo per, mi scusi Paris, questo per dei residui che rimangono dall'utilizzo che se n'è fatto fin, se non erro, dagli anni 60 fino al 1992 quando è stato vietato, o perché viene ancora utilizzato? Cioè c'è qualcuno che se la compra in qualche posto dove presumibilmente non è vietato? Guardi, noi abbiamo degli studi e sappiamo per certo perché una sostanza che viene usata attualmente ha dei picchi stagionali di concentrazione nelle acque. La trazina ha un andamento piatto, quindi sono residui, oramai abbiamo 13 anni di studi, sono residui del vecchio utilizzo che è stato massiccio. Ma detto questo, che mi dica? No, quando una sostanza... Sì, prego, prego. Quando una sostanza finisce nelle acque sotterranee, vengono a mancare quasi del tutto i meccanismi che la degradano, per cui diventa pressoché impossibile rimuoverla. Segue le dinamiche delle acque sotterranee, si diluisce con grande lentezza. La faccio semplice per i nostri ascoltatori così capiscono. Sì. Se queste sostanze finiscono in un fiume o in un lago, c'è un ricambio di acqua molto più frequente e molto più rapido, e quindi anche un degradarsi anche per come dire il per effetto di microrganismi che si rimangiano, sì, letteralmente è proprio, presumo della luce del sole. Esatto, evaporazione, tutte queste cose qua, mentre invece se è nella falda che è che sta là sotto eccetera, esatto, è molto più difficile. Detto ciò, lei mi diceva, in sostanza non ci sono rischi per i consumatori tendenzialmente, almeno ovviamente dove ci sono i depuratori. Poi se uno si prende l'acqua direttamente dal Po, beh, insomma, come dire, avrà qualche problema anche lui, insomma. No, il rischio diretto per i consumatori, per l'acqua, diciamo, al rubinetto è minimo ovviamente. C'è un rischio indiretto perché poi questa contaminazione può ritornare nell'ambiente attraverso varie vie, l'acqua viene utilizzata per irrigare, diciamo, voglio dire, ci sono anche acque balneabili, quindi diciamo ci può essere un'esposizione indiretta, insomma. Mi sento di escludere abbastanza con ragionevole sicurezza il fatto che si beva acqua sporca con dentro queste cose, certo, sì. Ma l'ambiente poi ci restituisce in qualche modo quello che gli abbiamo... Anche se ovviamente a questo punto è molto più diluito tutto questo, no? Molto più diluito, ma consideri che questa... Perché abbiamo studiato la trazina? Perché, diciamo, è un interferente endocrino. L'interferente endocrino è una sostanza che viene considerata senza soglia di effetto, quindi non c'è un livello che si può considerare sicuro, quindi anche le concentrazioni oramai abbastanza basse che si trovano nell'ambiente possono rappresentare un problema. È un po' questo. Per quanto riguarda la trazina, la terbutilazina, che è quest'altra sostanza, è altrettanto pericolosa o no? È una sostanza molto pericolosa, sia è pericolosa per l'uomo e sia molto pericolosa per l'ambiente. Ci sono degli studi in corso per accertare il fatto se sia un interferente endocrino. La Commissione europea l'ha messa in un elenco di sostanze soggette a valutazione. Ci sono alcune evidenze, ma non c'è un pronunciamento definitivo al riguardo, quindi non possiamo dire che sia, però fa parte della stessa famiglia, ha caratteristiche molto simili alla tradizina. La ringrazio, grazie a Pietro Paris, che è responsabile del settore sostanze pericolose dell'ISPRA, e questo rapporto, come dicevamo, verrà presentato a Roma nei prossimi mesi in maniera definitiva, cioè in parte ci sono dei dati, come avete sentito, che erano già usciti a maggio, e poi appunto è stata tirata fuori di nuovo questa storia che riguarda soprattutto la pianura padana. Magari avremo modo di tornarci nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se avremo qualche dettaglio ulteriore in più. Più tra l'altro da segnalare qua anche la posizione degli agricoltori, troviamo un'intervista a Stefano Masini della Coldiretti che dice il prodotto è autorizzato, noi siamo comunque attenti alla salute dei consumatori. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi c'è Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.